Caro amico, se ti senti a terra, parla un po' con me. Ti starò vicino con il cuore, parlami di te. Il lavoro, dimmi come va. Vivi bene con la tua città. Quanto tempo che ci conosciamo, ma siamo ancora qua. Io non posso regalarti il cielo per volare, no. Ma se vuoi partire per un viaggio, accompagnerò. Sai, non scordo cosa hai fatto tu quando il mondo mi crollava giù. Caro amico, vero amico, no, non ti abbandona più. Se poi qualcuno ti ha tradito, non pensarci più. Anche questo può servire a darti un po' di forza in più. Ora alza, facciamo un giro, entriamo in quel caffè. C'è un pianoforte, suonerò qualcosa e canterò per te. Io canterò per te. Sì, canterò per te. Come in un amore che non muore mai. Questa storia di amicizia vera vive tra di noi. È una grande voglia dentro che risveglia il bene che ho per te. Caro amico, sento che arricchisce soprattutto me. E se avrai bisogno di sfogarti, conta su di me. Dolce amico, chi non ha sbagliato, ma che male c'è? Prima o poi tutto il sudore speso ci ripagherà. Ah, ah. Caro amico, una canzone nuova sta nascendo già. Io canterò.